24 mattino di Alessandro Milan. Scoccano le 7:21 minuti proprio in questo istante. Allora, cari ascoltatori, eccoci qua in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Ci trovate anche su Facebook e siamo tanti, sempre più, forse quasi già 500. Chi lo sa, andate anche lì. Il tema del nostro sondaggio, parliamo delle intercettazioni che da giorni campeggiano sui giornali, di questa proposta di un deputato del PDL di introdurre il reato di intercettazioni illegittime. Cioè, uno intercetta, poi si legge tutto sui giornali, poi viene assolto. I magistrati che hanno ordinato queste intercettazioni devono pagare disciplinarmente e con soldi. Che ne pensate? Siete d'accordo? Le intercettazioni illegittime, reato di intercettazioni illegittime. Votate su radio24.it il nostro sondaggio, ne parleremo alle 8:30. Ed ora, come di consueto, i giornali in edicola. In primo piano. Mercoledì 26 gennaio. L'apertura del Sole 24 Ore, tutti in coda per il bond UE, l'economia britannica torna in recessione, cade la sterlina, dunque uno sguardo ai mercati finanziari europei, mentre per il Corriere PDL lega l'attacco di Fini, è la scelta anche per Libero, il giornale, Libero, caro Fini, fai le valigie, il giornale Fini nei guai giudiziari, ma anche la stampa, PDL e Lega riparte l'assedio a Fini, è certo questo il tema politico del giorno. Poi c'è ancora Rubi per Repubblica, Berlusconi la mia verità su Rubi, per il Fatto Quotidiano Premier sotto ricatto, governo inetto, l'Unità l'uomo che scambiò l'Italia per un bordello e c'è una foto di Silvio Berlusconi. Il Messaggero sceglie la vicenda di Mike Bongiorno, rubata la bara di Mike. Da cosa voglio partire? Due segnalazioni, come al solito. Prima sul giornale, Fausto Biloslavo. Tutti a far shopping in Slovenia, dove il Viagra costa la metà. Pagina 16 del giornale. Un esercito di italiani varca quotidianamente la frontiera per far scorta di medicinali a buon mercato, meglio se colorati di blu. Racconta Fausto Biloslavo, quando portavamo i calzoni corti, mamma e papà ci imbarcavano a bordo della mitica 600 diretti oltre confine nella Jugoslavia di Tito. Racconta così da Trieste, la sua città, Fausto. Si comprava benzina, carne, sigarette a prezzi stracciati. Oggi i triestini corrono nella vicina Slovenia, ma fare scorte di Viagra e altri farmaci che costano molto meno. D'altronde, racconta il giornale, la Pfizer conduce per il Viagra una politica commerciale in Italia diversa da quella della Slovenia. In Slovenia costa meno, costano meno anche altri farmaci, convenienti soprattutto quelli farmaci di fascia C che da noi hanno prezzi imposti, mentre vanno forti anche gli ansiolitici. E insomma, questi italiani, i turisti in Jugoslavia del farmaco, soprattutto se Viagra. Questo sul giornale. Mentre segnalo, a pagina 26 del Corriere della Sera, un articolo di Armando Torno, fermarsi anche sul web, l'arte di sapersi annoiare. Armando Torno racconta l'iniziativa del responsabile di un sito che ha questo nome, Do Nothing for Two Minutes, cioè non fare nulla per due minuti, e racconta Torno l'ozio padre dei vizi. È una battuta che ebbe una certa fortuna nell'Ottocento, ma ha perso valore, anzi si può ritenere completamente falsa. La noia è fastidiosa? C'è anche un tedium buono, come il colesterolo, sapere oziare, annoiarsi, mettere un giusto distacco tra noi e il lavoro, la frenesia del fare. Significa anche e soprattutto ricaricare lo spirito. Non a caso il De Ozio, l'ottavo libro dei dialoghi di Lucio Annio Seneca, esalta il ritiro dagli affari pubblici. Non incidentalmente Paul Lafargue, il genero di Marx, pubblicò nel 1887 Il diritto all'ozio, in cui si possono leggere passi che non hanno perso quel sapore controcorrente che resta il sapore e il sale delle rivoluzioni. E allora ecco qui, Alex Tew, oggi a capo di una società, Pop Jam, ha ideato questo rimedio, Do Nothing for Two Minutes. In cosa consiste? È molto semplice. Chi entra in questo sito si trova davanti a un tramonto delizioso, sente come sottofondo le onde del mare, al centro dello schermo appare un conteggio alla rovescia della durata di due minuti e una scritta invita a rilassarsi, a non toccare nulla del dispositivo tecnologico col quale si sta operando. Via le mani dalla tastiera, via le mani dal mouse, via dallo scroll, niente. Se non si resiste per questi 2 minuti, esce fuori la scritta prova fallita. E aggiungo io, se per 2 minuti non siete in grado di toccare il mouse, ragazzi, la situazione è serissima. Ci fermiamo un attimo per pubblicità e meteo e poi ripartiamo dalla politica. In primo piano. Uno dei temi politici che trovate sviluppati sui giornali certamente è il fatto che da PDL e Lega è ripartito la pressione per chiedere le dimissioni di Gianfranco Fini. Come detto all'apertura di diversi giornali, Lega e PDL spingono per la dimissione di Fini, anche a pagina 5 del Corriere, tutto sull'onda di che cosa? Delle carte annunciate da giorni, arrivate alla Farnesina, da dove? Da Santa Lucia. Carte che anche oggi Fiorenza Sarzanini sul Corriere dice proverebbero il fatto che Giancarlo Tugliani, vale a dire il cognato tra virgolette di Fini, sia il reale proprietario della casa e sia dietro le due famose società offshore che sono servite per comprare la casa celebre di Monte Carlo. Tugliani il proprietario della casa, questo dicono le carte, dice Fiorenza Sarzanini. Il 2 febbraio ci sarà la decisione dell'inchiesta, la linea della procura è tracciata, il reato non c'è, non cambia nulla, ci si limiterà a trasmettere le carte provenienti da Santa Lucia alla giudice, che il 2 febbraio dovrà decidere se archiviare l'inchiesta come sollecitano i pubblici ministeri. Ma secondo queste carte, secondo i fogli giunti al ministero, quello che è provato è Giancarlo Tugliani è il titolare di Timara e Printemps, vuol dire che nel luglio 2009 fu proprio lui, il cognato di Fini, ad acquistare la casa d'Alleanza Nazionale schermandosi dietro il paravento della società caraibica. Questo secondo indiscrezioni, anche se, racconta la Sarzanini, per i magistrati non cambierebbe nulla. Per noi, fanno sapere in procura, appariva scontato che Tugliani fosse il reale proprietario dell'appartamento, ma non ci interessa perché compito del PM è stabilire se sussisteva il reato di truffa e abbiamo ritenuto che non fosse contestabile. Sta di fatto che Libero Giornale molto insistentemente tornano e molto duramente le carte dei Caraibi che fanno tremare Fini. Questo è il titolo per esempio del giornale, con Gianmarco Chiocci e Massimo Malpica, cioè coloro che portarono avanti questa tirano fuori questa storia. Sulla Stampa, pagina 7, viene dato un Fini in questo retroscena di Fabio Martini un pochino preoccupato. Mio cognato mi ha giurato che lui non c'entra niente. Il rovello di questa notte torna una notte insonne, ma Fini confida che lui si sente tranquillo. Giancarlo mi ha assicurato che lui non c'entra nulla con quelle società. Si ricorda ancora quella notte del 24 settembre, descritta come difficilmente dimenticabile da chi vi partecipò, col presidente della Camera, reduce dalla campagna martellante estiva del giornale di Libero, e costretto a far conoscere la sua versione dei fatti. Quella notte doveva sapere una volta per tutte come stessero le cose, e provò in tutti i modi a convincere il giovane Tugliani a lasciare l'appartamento a Monte Carlo. Da quel lungo colloquio notturno, racconta ancora Fabio Martini sulla Stampa, Fini non deve aver tratto una certezza granitica, perché l'indomani nel suo videomessaggio disse testualmente: «È Giancarlo Tugliani il vero proprietario della casa? Non lo so, gliel'ho chiesto con insistenza. Se dovesse emergere con certezza che Tugliani è il proprietario, non esiterei a lasciare la presidenza della Camera». E allora su questo si batte la campagna mediatica. Secondo il Riformista, d'altronde è questo l'obiettivo ora di un Berlusconi sempre dato più per infuriato: costringeremo Fini a dimettersi. E secondo Repubblica, con retroscena di Francesco Bei, dietro tutto questo, tutto il caso Ruby, c'è Fini, l'ossessione del cavaliere Gianfranco dietro questo fango. Ma è un Berlusconi che è pronto a reagire. Già qualcosa l'ha fatto, vabbè, insomma, epocale già è diventato l'intervento molto aggressivo, anche con una serie di insulti nei confronti di Gad Lerner in TV. Ebbene, la strategia di rivincita del premier Berlusconi pare che passi attraverso che cosa? Beh, ieri ha riunito i fedelissimi, quello che il Corriere definisce un vero e proprio consiglio di guerra più che un consiglio politico, le elezioni, la possibilità delle elezioni sempre sullo sfondo, e sia secondo Repubblica che secondo il Corriere addirittura in questo weekend Berlusconi annuncerà il nome del nuovo simbolo. Sapete che quel PDL, Popolo della Libertà, non gli piace più da tempo. si era vociferato di questo logo Italia, però poi un po' smentito. Però cercasi un nuovo simbolo, disperatamente, racconta Marco Galluzzo sul Corriere, del partito. Berlusconi ha deciso, forse sì, forse no, forse questo weekend ci sarà l'annuncio. D'altronde che ci sia una situazione di forte tensione ancora lo si capisce dalle paginate che ci sono sulla vicenda Ruby. Le notizie ultime sono, e le trovate su tutti i giornali, che la difesa, e vale a dire l'avvocato Niccolò Ghedini e l'avvocato Longo, hanno presentato le loro memorie alla Camera. La difesa, cene normali, niente sesso, pagina 17 del Sole 24 Ore. Donatella Stasio racconta tutte le versioni dei controinterrogatori che, a norma di codice penale, gli avvocati difensori hanno fatto preventivamente, convocando tutti i testimoni per la difesa. Cene normali, niente sesso, anche sul Corriere niente sesso, solo drink e cene, si beveva tanta Coca-Cola, la musica tranquillo, niente di osceno. Per esempio, dice Lele Mora, la cosa più scena che si faceva ad Arcore era cantare. Oppure Carlo Rossella, le signore erano simpaticamente rispettose del presidente, nessuno che le dava del tu, che dava lui del tu. E poi io riconosco, avendo fatto cinema, l'età delle donne, l'occhio esperto, e nessuna è minorenne. Il medico Alberto Zangrillo, il medico di Berlusconi, dopo le cene non andavo via, lo tenevo sempre sotto visita e sotto controllo. E poi ci sono tutte queste ragazze che certamente da leggere le intercettazioni pare che raccontino altro, ma in questa memoria difensiva raccolta dagli avvocati di Berlusconi c'è chi dice Berlusconi mi ha aiutato, per esempio Polanco dice di Ruby, diceva di essere laureata in estetica e voleva aprire un centro estetico. Ci sono insomma tanti, anche Daniela Santanchè tra le persone sentite come memoria difensiva. La memoria difensiva degli avvocati Berlusconi è questa, insomma, non c'è nessuna scena hard. Che il clima sia intesito, signori, lo si capisce dalla prima pagina del Giornale. Una bella foto e un bel schizzo di fango che trovate in prima pagina nei confronti di Niki Vendola. Prima bisogna descrivere questa foto sotto il titolo Le prediche di Vendola, ma quest'uomo può mettersi a fare la morale? E perché c'è questo titolo? Perché sotto c'è una foto di Niki Vendola, a fianco a lui c'è anche l'ex ministro Pecoraro Scanio, è tratta dal Gay Pride di qualche anno fa. E c'è a fianco a Niki Vendola un ragazzo in canottiera col cappello e con una lingua, la lingua che si avvicina all'orecchio di Niki Vendola, un po' lasciva, un po' morbosa questa lingua, anche un po' galeotta. E il titolo è questo: ma quest'uomo può mettersi a fare la morale? Se Noemi era la pupilla e Ruby il culo, Niki Vendola è l'orecchio. Questo è il commento alla foto. A ognuno il suo, nell'Atlante anatomico della politica italiana. A latitudini subombelicali si scatena la tempesta mediatica su quanto accade nella residenza del Presidente del Consiglio. Il governatore della Puglia lancia i suoi strali, è una spettacolarizzazione dell'indecenza, una palude di ridicolo dal sapore grottesco. Eppure Niki non lo ricordavamo con la tonaca. Lo ricordavamo al Gay Pride, come testimonia questa foto, per l'appunto, mentre un gentile fan in paglietta e sorrisino gli avvicina la soffice e gagliarda lingua all'orecchio, in pubblico. Mica nella tavernetta di casa sua. Come diceva, governatore, grottesco, ridicolo, chi è senza effusione scagli la prima indignazione e chi ha orecchie per intendere non le usi per farsi solleticare. Questa è la prima pagina del Giornale con questa foto di Niki Vendola. Segnalo sulla vicenda un'intervista a Luisa Todini, imprenditrice, ieri ha incontrato con il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia in qualità di presidente del comitato Leonardo, intervistata da Federica Fantozzi sull'Unità, pagina 13, dice: io faccio parte dell'altra Italia, mi sveglio alle 6:30, porto mia figlia a scuola, vado in ufficio, sono una privilegiata ma felice di accudirle, lavorare e tornare per cena. Poi però della vicenda Berlusconi e alla domanda secondo lei non ha responsabilità, ecco la risposta: un uomo che assume incarichi pubblici ha maggiori responsabilità, oneri oltre che onori. Deve avere l'accortezza di uno stile di vita decoroso, ma per ora è tutto da provare. Che attendibilità hanno queste ragazze. Ma lei non crede alle intercettazioni? Guardi, quando ero a Strasburgo mi hanno attribuito una ventina di fidanzati, alcuni neanche li conoscevo. Berlusconi è gaudente, ricco, molto generoso, non è una novità. Certo, poi dice come è cambiato il premier, risponde Luisa Todini, nel 94 ho conosciuto un uomo dedicato al paese e ora purtroppo è concentrato sui guai personali, giudici, politici, ex mogli, tutti cercano di distruggerlo. Chissà, magari vuole abolire i reality in TV. Sta di fatto che anche noi parleremo di questa vicenda delle intercettazioni, la proposta di introdurre il reato di intercettazione errata, di intercettazione che è sbagliata, illegale, illegittima. Siete d'accordo? Il tema del nostro sondaggio, sullo sfondo ovviamente il caso Ruby. E poi sullo sfondo, beh, che cosa? Come detto, Berlusconi è dato per furioso e troverete oggi diversi commenti sui giornali sulla vicenda della telefonata che abbiamo sentito, la telefonata incredibile. Intanto Libero, con Salvatore Damma, fa capire che Bonaiuti ha cercato di dissuadere Berlusconi. No, Silvio, non lo fare. Poco prima di mezzanotte, ma Berlusconi ormai aveva già la cornetta in mano, stava telefonando a Gad Lerner, Paolo Bonaiuti ha cercato di frenarlo, capendo insomma che questo avrebbe potuto ritorcersi in un boomerang, e invece Berlusconi non si è trattenuto. E trovate ovunque, sul giornale per esempio, è il trio degli insulti che accende la TV sulla pelle di Silvio, e sono Santoro, Floris e Gad Lerner per il giornale, mentre Mughini su Libero, Mughini tra l'altro ha partecipato a una delle performance in cui Daniela Santanchè si è abbandonato credo da Agorà con Andrea Vianello sulla Rai, e Mughini era lì, urlava, credo, manco nell'angolo dello zoo, una frase del genere. E Giampiero Mughini, dal titolo Che orrore i telelitiganti, sta parlando uno che, pur non militando in nessunissima delle due parti in campo, non è un cuor di zucchero, né si ritrae quando c'è da dire pane al pane, solo che l'enunciazione netta delle proprie opinioni e lo spargere pepe nell'insalata della polemica è una cosa, l'urlare, l'imprecare reciproco da una poltrona televisiva è tutt'altra cosa. Insomma, Mughini se la prende con questo modo ormai di parlarsi addosso. Non ce la fa più a tenersi, alza il telefono e insulta tutti. Questo è anche l'unità, insomma, tutti ad analizzare quello che sta succedendo, mentre il Fatto Quotidiano mette in prima pagina quello che Masi, direttore generale della RAI, ha studiato per i programmi televisivi, la novità che farà discutere. La novità è questa: adesso vogliono scegliersi anche il pubblico. Masi ha ordinato ai direttori di rete i politici che vogliono far entrare quella che è definita la loro claque, cioè gli spettatori che li sostengono e poi applaudono ogni loro parola, possono farlo. La polemica di giovedì scorso a Santoro non aveva permesso alla Santanchè di far entrare in TV, nello studio di Anno Zero, alcuni che la Santanchè aveva portato, a meno così dicono i giornali, e allora Santanchè si era molto infuriata e Anno Zero, Santoro dice, non se ne parla. Ma Masi ha ordinato, compito dei direttori di rete, fare entrare anche le eventuali spettatori portati dai politici. Vabbè, pubblicità e meteo, ripartiremo da Saviano. Roberto Saviano fa un'intervista oggi al Corriere della Sera e probabilmente il dado è tratto, Saviano lascerà Mondadori. In primo piano. Roberto Saviano, Mondadori, la proprietà non mi sopporta. Intervista al Corriere della Sera, Marco Imarisio, intervista a Saviano, l'equilibrio si è rotto. Allora Saviano, è davvero un addio? Mondadori e Naudi sono case editrici Libero, nel mio caso però sento che la proprietà non sopporta più la mia presenza. Una cosa è la proprietà, un'altra è l'editore, ma nel mio caso questo equilibrio sembra rompersi, anzi si è rotto. Semplice, sono felice che Feltrinelli mi abbia proposto di fare un libro coi monologhi di Vieni via con me. E Mondadori le ha mai fatto questa proposta? Mai. E poi ritorna Imarisio sulla vicenda della dedica alla laurea honoris causa ai pubblici ministeri di Milano. Non l'ho vista questa dedica, risponde Saviano, in coerenza con ciò che scrivo. Ilda Boccassini è il magistrato che in questi anni al nord è schierato come pochi altri contro l'andrangheta e il riciclaggio. Pietro Forno e Antonio San Germano hanno sempre svolto il lavoro con serietà e ricordo a tutti che la dedica ai PM è avvenuta mentre ricevevo una laurea in legge. E poi, dove nasce il cortocircuito con Mondadori? Chiede Marco Imarisio. Dalla constatazione che Marina Berlusconi non è intervenuta contro le molteplici dichiarazioni che in questi giorni sono state fatte su suo padre, eppure ha sentito la necessità di intervenire sulle mie parole, in quanto mio editore, su una questione non di natura editoriale ma politica. La mia dedica ha generato orrore in Marina Berlusconi, alla quale però non mi risulta che in questi anni abbiano fatto orrore molte cose terribili avvenute in questo paese. E adesso si volta pagina. Negli ultimi anni ho avuto contatti con tanti editori, credo sia giunto il tempo di tornare a vivere e lavorare di parole. Spero che questo libro con Feltrinelli possa darmi ossigeno e questa nuova avventura mi possa anche far divertire. Ne ho bisogno. Insomma, più chiaro di così, la rottura tra Saviano e Mondadori, di cui parlavamo tra l'altro ieri, con questa intervista al Corriere della Sera, è evidente e esplicitata per la prima volta dalle parole di uno dei due protagonisti, vale a dire Roberto Saviano. Come detto, il Sole 24 Ore si concentra sulla richiesta del Presidente della Repubblica Napolitano, forzare la crescita. Questa pagina 5, ieri ha incontrato il Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, diversi imprenditori, appunto il Comitato Leonardo, di cui il Presidente Luisa Todini, di cui abbiamo letto prima l'intervista all'Unità. Tra l'altro c'è un editoriale di Giorgio Santilli in prima pagina: la politica annoiata lascia da sole le imprese. Nel gran parlare, nel gran polverone della politica italiana, avvitata da mesi solo sulle feste, le inchieste, le sorti del Presidente del Consiglio, non si scorge più il profilo reale delle cose, scrive Santilli. Per qualche settimana ci hanno pensato la Fiat, il referendum su Mirafiori, la riforma delle relazioni industriali a dare concretezza al dibattito. Ora sulla scena si è rapidamente tornati a parlare d'altro, a scansare il dato della bassa crescita, a ignorare le difficoltà delle imprese sul mercato italiano e all'estero. Insomma, questo monito che è stato lanciato anche qualche giorno fa da Emma Marcegaglia. Tra l'altro batte ancora il Sole 24 Ore sul federalismo, un tema molto importante, e la novità, raccontano Laura Cavestre e Gianni Trovati a pagina 7, è che c'è la possibilità da parte di molti comuni, probabilmente col federalismo, di aumentare l'aliquota IRPEF locale. Tentazione IRPEF per i sindaci: uno su tre è possibilista o sicuro di aumentare l'aliquota per far quadrare i conti. Per esempio, il Sole ha sentito diversi sindaci, 75, amministratori di capoluoghi di provincia. Ebbene, 25 di loro hanno aperto la possibilità di ritoccare l'addizionale. Molti hanno detto di no, ma semplicemente perché sono al massimo già dell'addizionale loro consentita. Ma molti invece, come Agrigento, i sindaci di queste città, Asti, Brescia, Como, Foggia, Lecco, Macerata, Nuoro, Perugia, Torino, Trapani, Venezia, hanno detto sì, per far quadrare i conti dovremmo aumentare probabilmente la IRPEF locale. E questo, ovviamente, dicendo, è uno scaricare responsabilità da parte dello Stato centrale su di noi, così noi appariamo, no, quelli brutti e cattivi, traduco io, che aumentano l'IRPEF. Però è molto interessante, tentazione IRPEF per i sindaci, la trovate a pagina 7 del Sole 24 Ore. È una delle dei passi del federalismo, e che dire, poi è ciò che interessa, perché va nelle tasche di tutti noi cittadini italiani. Che dire, io sono alle segnalazioni conclusive. Beh, devo solo fare un passaggio su tutte le pagine che trovate su questa vicenda veramente incredibile, no? Il fatto che sia stata trafugata la salma di Mike Bongiorno, trovate su tutti i giornali, addirittura il Messaggero ci apre, si ricordano anche tutte le vicende del passato che hanno coinvolto Charlie Chaplin, Enrico Cuccia, Raffaele Bagni, il cui figlio, ex calciatore di 3 anni, è stata trafugata la bara, Charlie Chaplin, spoglie rubate, poi ritrovate dopo 2 settimane. Segnalo sul Secolo XIX qualche battuta di Michele, il figlio di Mike Bongiorno, al telefono con la voce spenta: ci appoggiamo alla giustizia, alle forze dell'ordine, siamo sgomenti, increduli, non ci sono parole per commentare. Non dice molto di più, poi si affida a un comunicato stampa, ma certo una vicenda incredibile. Chiudiamo col sorriso. Gene Gnocchi oggi il rompipallone in prima pagina della Gazzetta: Adriano è triste per l'operazione alla spalla, non riesce a sollevare la birra. Questo oggi Gene Gnocchi che ritrovo dopo un po' di tempo, brillante, sulla Gazzetta dello Sport in prima pagina. Ci fermiamo, votate il sondaggio sulle intercettazioni, il reato di intercettazioni illegittime si vuole introdurre e il PM che le ordina e poi magari uno viene assolto ma intanto sputtanato deve pagare disciplinarmente ed economicamente. Che ne pensate? È giusto? Ne parleremo alle 8.30, votate il sondaggio, mentre alle 8.20 nell'intervista abbiamo il presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, per discutere su questo argomento. Negare la Shoah dovrebbe essere punibile come un reato penale? A tra poco. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati ad Alessandro Milan, voglio salutare il presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Domani è la giornata della memoria, si ricordano le vittime della Shoah. E è tornata alla ribalta una proposta in questi giorni, il ministro Alfano ha detto sarà legge entro l'anno, quella di proporre questa legge, è reato negare l'olocausto o minimizzare l'olocausto. Una proposta che lei ha sostenuto e sostiene, presidente, perché? Ma io credo che le motivazioni possono essere infinite. In primo luogo il fatto che non sarà l'Italia apripista su questa scelta e quindi a coloro che con estremo rispetto guardo le loro osservazioni ci vengono a dire che questo potrebbe configurarsi in una sorta di impedimento di libera espressione, voglio ricordare che ormai questo è non solo già legge in paesi come la Germania, la Francia, l'Austria, il Belgio, la Romania, Liechtenstein e potrei andare avanti con altri paesi europei, certo non tutti, ma è già una legge quadro dell'Unione Europea che dovrebbe essere ratificata. Secondo aspetto, proprio perché noi non ci chiamiamo la Danimarca, che per esempio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando ci furono le occupazioni naziste e venne imposto agli ebrei di mettere la stella gialla, non abbiamo avuto un re che si è messo anche lui la stella gialla per solidarietà con i propri sudditi. Noi abbiamo avuto invece un paese come l'Italia che già prima dell'avvento del nazismo, già prima dell'occupazione ha emanato le leggi razziste del 38, ha privato gli ebrei della loro libertà ed è un fatto questo che è avvenuto nel Parlamento italiano all'unanimità ed è per questo che io credo noi si debba intervenire, anche perché questo problema del negazionismo non è un problema fine a se stesso di poche persone. Sì, no, certo, questo certo. È certo, come ho anche avuto modo di chiarire, credo che il ministro Alfano abbia anche apprezzato, l'idea non è quella che se uno in una chiacchierata da bar, in un fatto privato, dovesse esprimere un'opinione del genere, immediatamente viene configurato come reato, ma se questo viene espresso nelle accademie, nelle scuole, nei luoghi dove avviene istruzione, dove gli alunni oltretutto non hanno la forza, la capacità di reagire, di contrastare o in alcuni casi, come è successo a Teramo, possono anche avere paura del proprio professore che poi a loro volta sarà quello che li dovrà giudicare, esaminare. Sì. Quindi questo è un aspetto dirimente, cioè secondo lei io in casa mia posso dire una cosa aberrante, come dire le camere a gas non sono esistite, eccetera, ma se lo dico invece, non so, in una lezione universitaria, questo è reato, mentre nel primo caso sono solo un pazzo scriteriato e perfetto. Perfetto, è ovvio, gli altri luoghi dove non va detto sono i luoghi istituzionali, cioè non è che uno nel Parlamento italiano o nel più piccolo dei comuni d'Italia o dei municipi a Roma, per esempio, se un consigliere si alza in piedi e dice da oggi voglio sostenere questo non è ovviamente permesso, cioè noi dobbiamo trovare dei luoghi molto chiari e definiti dove questo è deve essere considerato un reato. Tra le critiche, presidente Pacifici, c'è per esempio oggi Massimo Fini sul Fatto Quotidiano, la definisce una legge liberticida, totalitaria, degna proprio di quello stato fascista che emanò le ripugnanti leggi razziali, perché limita la libertà di pensiero, ecco. Ma come si dice, ci sono degli intellettuali, Massimo Fini è arrivato un po' in ritardo in questa critica. Io sono orgoglioso del fatto che i primi ad aver posto dei dubbi, e questo testimonia anche l'alto valore della discussione all'interno delle nostre comunità, sono stati gli storici dell'ebrei, la stessa Anna Foa, per esempio, no? Nota antifascista, ma credo che noi dobbiamo guardare la vicenda con un certo pragmatismo e realpolitik. Quindi non è un problema di privare la libertà di opinione, non siamo la apripista, oltretutto siamo in una generazione che purtroppo ci stanno lasciando i testimoni diretti e sempre più spesso sulla rete, ma proprio perché ci sono dei cattivi, web, tra virgolette, certo, maestri, si diffondono leggende, vicende particolari come quella, per esempio, che le camere a gas sono un'invenzione e che questa è tutta una propaganda della cosiddetta lobby ebraica, anzi vanno oltre, della lobby sionista. Un'ultima domanda, Presidente, domani è la giornata della memoria, crede che sia radicata nelle coscienze degli italiani oppure non abbastanza? Ma io credo di sì, credo che abbiamo fatto grandi passi avanti e, come ci ricordava Casini l'altro giorno in un convegno fatto al Capranichetta proprio sul tema del negazionismo, lui che era tra i pochi, credo proprio forse l'unico nel Parlamento che si è autorevolmente espresso in maniera contraria, mentre il 90% dei leader dei vari partiti invece l'hanno accettata questa proposta, lui ha detto che con orgoglio rivendicava il fatto che l'Italia è tra i paesi che più di tutti si mobilita in quella che, devo dire, non è neanche più una giornata della memoria, ma quasi una settimana o un mese della memoria, in cui il paese dalle Alpi fino alle isole è mobilitato a livello dal Quirinale, domani ci sarà una cerimonia, sì, tutte le istituzioni, le amministrazioni anche più piccole, ma la cosa più bella nelle scuole, noi abbiamo delle richieste infinite, cosa che, quindi, di testimoni, di sopravvissuti, di storici che vanno a parlare di questo tema, cosa che devo dire non avviene in altre parti d'Europa, in cui le televisioni stesse, pubbliche e private, anche quelle più piccole, fanno documentari, approfondimenti, talk show, diciamo, c'è un momento di grande riflessione che ci deve far guardare con grande interesse e con grande applauso, ma attenzione, non cadiamo in un errore. Sì. Ho sentito prima un piccolo spot, chiedo di Paolini. Sì, Paolini questa sera. Dove lui dice, sembra quasi assurdo mettere un post-it che ci deve ricordare che oggi c'è la giornata della memoria. È evidente, come ci ha insegnato Simon Wiesenthal, ogni giorno è un giorno da ricordare, ma credo che sia anche errato, attenzione, quindi questo è un problema, devo dire, tutto ebraico, delle nostre comunità, delle nostre leadership, credo che sia errato tentare di spiegare che sono gli ebrei attraverso quello che è stato il momento più tragico che lascio alla. La nostra storia è tutt'altro, è una storia molto più ampia, è una storia di aspetti positivi, di valori che noi abbiamo dato all'umanità, di cui ci sentiamo portatori e che oggi sono condivisi nelle più grandi democrazie. Proviamo a immaginare lo spirito dello Shabbat, il riposo settimanale, quando questa legge venne emanata secondo la tradizione ebraica e che noi abbiamo accettato rispetto ai precetti divini, si viveva in un'epoca in cui esisteva la schiavitù, in cui non esisteva la libertà di nulla. Oggi questa sembra una grande conquista sindacale, mettiamola così, ma è un valore che ha dato l'ebraismo e poter andare d'altronde avanti. È una storia d'altronde millenaria, Presidente. Io intanto la ringrazio, qui mi devo fermare. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata, Riccardo Pacifici, Presidente della Comunità Ebraica di Roma. Su questo tema, che poi continuiamo su Facebook con la discussione, è giusto secondo voi introdurre un reato per il negazionismo? Chi nega la Shoah dovrebbe essere punito per legge, secondo qualcuno, secondo il Presidente Pacifici, e il Ministro Alfano ha detto sarà legge entro l'anno. Parliamo di intercettazioni nel nostro sondaggio. C'è chi vuole introdurre invece un altro reato, quello di intercettazioni illegittime. Ti intercetto, poi vieni assolto, magari intanto tutto è finito sul giornale. Il PM che ha fatto questa intercettazione le ha ordinate, paga disciplinarmente ed economicamente. Siete d'accordo? Su radio24.it votate, oppure 800 24 00 24. 24 mattino. Una proposta di legge sta facendo discutere, la proposta che vorrebbe introdurre un reato, quello di riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche. Beh, intercettazioni, no? Secondo voi di cosa stiamo parlando? Basta leggere i giornali di questi giorni. Ne parliamo nel nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? La proposta prevede di introdurre appunto il reato di intercettazioni illegittime. Io la dico in maniera brutale, cioè viene intercettata una persona, magari tutto finisce sui giornali, poi si scopre che questa persona viene assolta in processo, chi ha ordinato queste intercettazioni, dunque i magistrati che hanno detto intercettate, devono pagare disciplinarmente, o la persona che è stata intercettata ha diritto a una riparazione economica. Questo è il succo molto spiegato, molto in sintesi della proposta, ma ce la spiegherà meglio l'onorevole Luigi Vitali del Popolo della Libertà, che l'ha proposta, l'ha depositata. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a lei, radioascoltatori. Intanto saluto anche, e con lei discuterà, l'ex magistrato Bruno Tinti. Buongiorno, dottor Tinti. Buongiorno a lei. Ora collabora anche con il Fatto Quotidiano, spesso scrive lì, ne ha scritto anche ieri della vicenda, insomma, Ruby e delle vicende, delle inchieste, di come si fanno le indagini. Vi chiediamo di votare, siete d'accordo oppure no? Per il momento devo dire, onorevole Vitali, che il 61% dei nostri ascoltatori, anzi il 60%, mi correggo, è scettico su questa proposta, però ci spieghi intanto cosa vuol dire, come definire che un'intercettazione è illegittima. Ma guardi, io voglio innanzitutto precisare che non c'è l'istituzione di nessun reato, c'è soltanto la previsione per il cittadino che viene prosciolto, che viene assolto, che viene archiviato in un procedimento nel quale è stato intercettato, il diritto, la possibilità di ottenere una equa riparazione. Perfetto. Esattamente, diciamo così, traslando l'istituto che già esiste nel nostro ordinamento del risarcimento per ingiusta detenzione. Non pagano i magistrati nella maniera più assoluta, ma paga lo Stato, ed è un bilanciamento di un diritto costituzionalmente protetto, che è quello della privacy, con un altro diritto ugualmente protetto, che è quello della sicurezza, sì, della collettività. Io ho detto magari pagano disciplinarmente, ma no, ci sarà una sanzione. Arriviamo anche disciplinarmente. L'ipotesi del procedimento disciplinare è prevista solo in un caso, cioè quando il pubblico ministero richiede o il GIP autorizza intercettazioni telefoniche senza averne la competenza funzionale o territoriale. In questo caso c'è un illecito disciplinare e di conseguenza scatta un procedimento contabile, a seguito del quale quei magistrati saranno chiamati a rifondere allo Stato le somme che eventualmente lo Stato avrà corrisposto ai cittadini. Lei tra l'altro ha stabilito che c'è un massimale, diciamo, si può ottenere da parte del cittadino intercettato, secondo lei, ingiustamente, cioè perché poi viene assolto, fino a 100.000 euro. Sì, il che non significa, il che ho sentito parlare di multe di 100.000, di 100.000, no, non è una misura stabile, cioè è il giudice, perché non lo stabilisce né il Parlamento né il Governo, è la Corte d'Appello che stabilisce, in base all'entità, alla natura, ai tempi della intercettazione, una equa riparazione. Perfetto. E come stabilire il fatto che sia stato tutto illegittimo intercettare una persona, e se viene assolta, esatto, se viene, esatto, non so, archiviato tutto? No, in quel caso è ingiusta detenzione, è ingiusta intercettazione, non illegittima. Sì, illegittima diventa solo se è stata autorizzata da magistrati incompetenti. In quel caso c'è un illecito disciplinare, perché si tratta di magistrati ciucci o in mala fede, ed è giusto che paghino come tutti i pubblici dipendenti. Bruno Tinti, ha sentito, ex magistrato, uno che di intercettazioni ne avrà fatte fare, non lo so, da magistrato. Comunque, che ne pensa di questa ipotesi di introdurre la riparazione per ingiusta intercettazione? Beh, legge sbagliata ed inutile, tanto per essere chiari. Allora, cominciamo dal fatto che è inutile. È inutile perché dal 1988 c'è la legge sulla responsabilità dei magistrati che commettono degli errori. E uno dei casi è la violazione di legge. Quindi, nel momento in cui un magistrato che non può fare un'intercettazione per vari motivi, perché si tratterebbe di un'intercettazione fatta fuori competenza funzionale, per esempio, o fuori competenza territoriale, come diceva l'onorevole Vitali, e invece la fa lo stesso, è già previsto che in questi casi egli debba rispondere civilmente risarcendo il danno cagionato. È una legge esistente da 25 anni o giù di lì, e quindi non vedo perché inserirne un'altra. Il problema, naturalmente, è che si deve trattare di una intercettazione illegittima, sì, cioè, come diceva l'onorevole Vitali, fatta fuori competenza o fuori competenza. E invece l'idea che possa essere ingiusta, cioè per non parlare del sesso degli angeli, magistrato, dottor Tinti, uno legge tutto sui giornali, e voglio riferirmi casualmente a quello che si sta leggendo sui giornali, e poi dopo finisce in nulla l'inchiesta giudiziaria. Era ingiusto pubblicare. Chi ha detto che era ingiusto? No, chiedo, è una domanda. Era ingiusto. Voglio dire, questo modo di ragionare, per cui la persona assolta ha diritto a essere risarcita per ciò che è stato fatto 4 anni prima, introduce una straordinaria categoria, la categoria del processo al colpevole. Cioè, in buona sostanza, si possono fare le indagini, quindi comprese le intercettazioni, solo nei confronti di chi sa con certezza che è colpevole. Il fatto che il processo serva per accertare se una persona è colpevole o innocente non viene in mente a nessuno. Quando io comincio un'indagine, non lo so se questa persona sarà condannata in Cassazione fra 5 anni. Ho degli indizi, ho delle prove, devo fare delle indagini. Le intercettazioni servono per capire quello che è successo. Delle indagini che si fanno in una procura finiscono con l'archiviazione. Che cosa si deve fare? Non si cominciano proprio? La domanda e la gira all'onorevole Vitali, credo di interpretare, è l'idea che dire nel frattempo, però, almeno sempre per non riferirsi a quello che sta succedendo, tutto finisce sui giornali. È per quello che è questo che l'ha anche spinto, onorevole Vitali, a dire nel frattempo la macchina dello sputtanamento, per usare un termine tanto ormai è stato sdoganato da tutti, è in funzione ed è attiva. No, non è stato soltanto questo. Il dottor Tinti probabilmente dimentica che le intercettazioni telefoniche dovrebbero essere uno strumento che investigativo per confermare indizi di colpevolezza, cioè per confermare, per acquisire una prova di responsabilità. Invece oggi vengono utilizzate per ricercare la notizia di reato, quindi c'è stato uno stravolgimento di questo strumento importantissimo di investigazione. Circa poi alla legge dell'88, volevo ricordare che non mi risulta che sia stata mai applicata, nonostante nel 1987 è stato approvato a larghissima maggioranza un referendum per il quale gli italiani avevano stabilito che era giusto introdurre la responsabilità civile dei magistrati, che è stata introdotta soltanto per casi di colpa grave o di dolo, che evidentemente sono casi troppo limiti per poter effettivamente interpretare questo principio. Sì. Quindi il problema è esattamente questo: c'è un diritto costituzionale che richiede la riservatezza, il diritto alla riservatezza, alla privacy. Questo diritto costituzionale può essere violato in casi eccezionali, cioè quando si stanno accertando reati che in quanto tali colpiscono il sentimento di sicurezza della collettività. Onorevole Vitali, le chiedo, sa che è già stata definita da qualche giornale, il fatto l'ha definita così, per esempio legge Bunga Bunga, qualcun altro ha detto legge Ruby. Io voglio dire che così come notoriamente io sono una persona di parte perché appartengo a un partito, anche i giornalisti, non c'è niente, non c'è niente di male. Ma anche i giornalisti del Fatto sono di parte, quindi questo mi interessa poco. Non è una legge bunga bunga, perché io la legge l'ho presentata nell'ottobre del 2000, dell'anno scorso, quando non si sapeva assolutamente nulla di quello che sarebbe successo, anzi c'era una dichiarazione del procuratore della Repubblica di Milano, il dottor Bruti Liberati, che escludeva categoricamente che la procura di Milano stesse indagando il presidente Berlusconi. È una legge di giustizia, è una legge di giustizia, e io mi meraviglio che fino ad oggi non abbiano preso la parola i magistrati associati, che hanno sempre sostenuto con orgoglio che loro vogliono una magistratura professionalizzata, vogliono una magistratura che risponda delle sue azioni, vogliono una magistratura che premi i migliori e punisca i peggiori, e questa è esattamente una legge che non incide assolutamente sulla utilizzabilità dello strumento delle intercettazioni, però stabilisce un principio di giustizia. Chi viene violato nella parte più intima o dopo la libertà, che è la privacy, deve avere un'equa riparazione. Questo il principio che contestava il dottor Tinti, ma adesso lo faccio replicare sul fatto che sia secondo lei o no una legge bunga bunga, è che il fatto che uno sia assolto non vuol dire per questo che sia stato ingiusto intercettarlo prima, altrimenti insomma bisognerebbe solo pensare che tutti i processi debbano finire con un colpevole, se non sono dei processi che sono campati per aria. Dottor Tinti, l'ho detta bene, insomma, la sua posizione. Ecco, il fatto che sia una legge bunga bunga, come qualcuno dice, l'onorevole Vitali dice no, l'ho depositata prima, una legge di giustizia, di principio di giustizia. Ma guardi, adesso questo, mi perdoni, è un fatto abbastanza irrilevante. Io sono convinto che sia una legge bunga bunga, perché guarda caso salta fuori adesso, no? Ma non è questo il punto. Beh, qualche mese fa in realtà abbiamo scoperto. Sì, quando tutti quelli che dovevano sapere già sapevano. Ma il problema, sa qual è? È che anche è fondata su affermazioni false. Per esempio, non è vero che le intercettazioni si debbono fare quando ci sono indizi di colpevolezza, quando si tratta di confermare le prove esistenti a carico di qualcuno. Le intercettazioni si fanno quando ci sono indizi di reato. Non si sa chi è il colpevole, si sa che c'è un reato. Le intercettazioni servono per trovare chi lo ha commesso. Nel caso di specie, l'idea è che c'erano delle ragazze che si prostituivano, che qualcuno le favoriva e le sfruttava, e a un certo punto è arrivata la notizia che una di queste prostitute era pure minorenne. Presunta prostituta. Ma mica tanto, abbiamo delle intercettazioni in cui Rubi dice: ah, Noemi è la pupilla, ma io sono il suo culo. Secondo lei abbiamo qualche dubbio sull'attività che svolge questa ragazza? Lasciamo lei il magistrato dovrebbe insegnarlo lei a me. Lasciamo fare il loro compito ai magistrati. Ci sono le memorie difensive che dicono il contrario. In ogni caso, mi faccia dare informazioni sul traffico, poi entriamo qualche ascoltatore. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Una riparazione per le ingiuste intercettazioni, che ne pensate? Però sempre il 60% dice di no. Io vorrei sentire qualche ascoltatore. Francesco da Lucca, buongiorno, che ne pensa? Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Niente, io volevo porre la questione su due livelli. Il primo è quello relativo a questa legge, no? Che anche se è venuta fuori e pensata in un periodo lontano dal bunga bunga, in realtà è una legge che interviene su un livello che riguarda magari la punizione non già dei magistrati che fanno il loro lavoro, ma suppongo di chi in maniera inopportuna e a volte magari anche tendenziosa tende a pubblicarlo con tanto facilità. Io conosco, poi tra l'altro in questo si potrebbe... Vabbè, ma lei è favorevole o no? Cioè, secondo lei l'idea che si introduca una riparazione per un'intercettazione venga definita ingiusta, non perché poi una persona viene assolta? No, e soprattutto se si tratta di persone pubbliche e di personaggi pubblici, perché tra l'altro queste persone hanno fatto una carriera, parliamo del premier in testa, ma di tutti i politici. Io conosco tanti privati cittadini che sono stati intercettati, e alcuni di questi stanno agli arresti domiciliari per funzionari pubblici, ma mica abbiamo letto mai intercettazioni di questi. Sappiamo che hanno combinato delle cose e quindi adesso stanno agli arresti domiciliari o quant'altro. Vabbè. Però vengono pubblicate quelle di personaggi pubblici. Lei dice, quelle che sono più di rilevanza anche pubblica e anche di interesse pubblico. Francesco, la ringrazio, voglio andare a Bergamo da Oreste, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io non sono d'accordo. E poi volevo chiedere una cosa all'onorevole Vitali. Sì. È vero che questa legge è retroattiva di 5 anni? Credo di sì, ma le risponde l'onorevole Vitali. C'è la retroattività per questa legge, onorevole? Sì, ma non è un elemento essenziale, si può eliminare. Comunque la retroattività non serve a Berlusconi, se è questo che si vuole sapere. Credo che fosse questo il senso della domanda. Non di serve a Berlusconi. In che senso? Perché non serve a Berlusconi? Perché si ha diritto a questa equa riparazione passati entro, si può agire entro 2 anni dalla sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di archiviazione. Siccome il presidente Berlusconi è ancora indagato, quindi deve essere prima assolto e poi ha 2 anni di tempo per potersi avvalere di questa legge. Quindi nel caso venisse assolto, poi nel caso passasse la legge, nel caso non c'è bisogno che sia retroattiva. Ah sì, certo, lei dice non sono passati neanche 2 anni, quindi non c'è bisogno di retroattività a 5 anni. Io vorrei chiedere al dottor Tinti questo. Dottor Tinti, lei conosce David Beckham? È appassionato di calcio? Beckham. Dei processi per falso in bilancio di società di calcio. Vabbè, ma David Beckham, insomma, di giocatore. Calcio non capisco niente. No, David Beckham non l'ho mai sentito. So chi è. Sa so chi che è, perfetto. Con una bellissima. Con un ex cantante, Spice Girl. Allora, le chiedo questo, perché così non parliamo di Berlusconi, ma nel mare magnum delle intercettazioni di questi giorni, di questa vicenda Rubi, su Repubblica, qualche giorno fa è uscita un'intercettazione in cui una di queste ragazze raccontava a un'altra ragazza: oh, ho conosciuto questo giocatore, è un figo, però è sposato, che devo fare? E quella gli dice: ma vai, divertiti. Ora, David Beckham potrà sentirsi un po' incazzato che forse gli hanno spiattellato sui giornali che forse aveva una storia con una, e forse anche la moglie sarà un po' arrabbiata di questo? È almeno ingiusto per lui? Dunque, naturalmente è ingiusto. Naturalmente questa intercettazione nel procedimento, nell'indagine e poi nei processi a carico di Berlusconi non c'entra assolutamente nulla. Certo, infatti. Il problema qual è? Il problema è che quando è uscita Repubblica, dice lei, io non l'avevo letta, sì, sì, l'ha pubblicata 3 giorni fa o 4 giorni fa, quando è stato? Sì, in queste, diciamo, in questo giro di... E questa intercettazione a quando risale? Mesi fa? Cioè, quando è uscita? Quando gli atti sono arrivati alla Camera? No, capito, perché ma... Perché sono stati nelle mani dei magistrati, ovviamente nessuno ne aveva saputo nulla. No, ma il principio... Tutto quello che lei sta dicendo... con riferimento alle fughe di notizie, allo sputtanamento mediatico, si verifica quando di fatto queste notizie diventano pubbliche perché arrivano alla Camera. No, no, ma questo sì, ma la domanda era questa, cioè secondo lei Beckham non si dovrebbe sentire in qualche modo ingiustamente, in qualche modo danneggiato, cioè avendo diritto a una qualche riparazione, perché dice ma che volete da me, cioè mi avete messo una parte della mia vita in una vicenda di cui non c'entro nulla e della quale magari devo rispondere a mia moglie ora. Sì, certo, ma se io sto intercettando qualcuno nell'ambito di un'indagine su un gravissimo reato e mi capita di finire, guarda, succede regolarmente, su storia di corna, e che vuole che faccia? Le tengo nascoste e non le utilizzo. Se poi qualcuno prende questa intercettazione e la pubblica, è una cosa molto spiacevole, insomma è come un terremoto, non se la può prendere con nessuno. Che faccio? Smetto l'intercettazione perché non si sa mai, salta fuori qualche poveretto che ci rimane pinzato. Sì, che tra l'altro lui manco parlava, c'erano due che parlavano di lui, magari stavano addirittura millantando. No, non lo so, io so che non vorrei essere nei panni di Beckham. Ma nemmeno io, però tu, guardi, io mi ricordo che avevamo un processo per sequestro di persona, una povera ragazza che era stata sequestrata, ovviamente non si sa da chi, quindi intercettazioni a tappeto. È venuto fuori tutta una storia di relazioni illecite della mamma di questa ragazza che veramente ci hanno lasciato, eravamo tutti preoccupati proprio di questo, oddio, speriamo che nessuno ne sappia niente. Ovviamente non trattandosi di personaggio pubblico non è andata sui giornali, il buon gusto di stare zitti, ma che cosa facevamo? Smettevamo di fare le intercettazioni? Bella domanda, onorevole Vitali, ho 30 secondi, crede che questa proposta di legge possa avere strada? No, guardi, io le voglio dire una cosa, voglio dire una cosa al dottor Tinti, voglio dire una cosa ai radioascoltatori: quando il pubblico ministero si rende conto che è stata intercettata una telefonata ininfluente o che non riguarda l'indagato o un possibile indagato, ha il dovere di oscurarla o di distruggerla, caro dottor Tinti, non di arrivare sino all'udienza preliminare o di consentire comunque che sia pubblicata. E comunque, dopo aver sentito il dottor Tinti, che si è fatta già l'idea, ha emesso già la sentenza per un'intercettazione che parla di Rubbi e di Letizia, vi faccio credere, vi faccio immaginare, diciamo, come si comportano certi magistrati quando sono in servizio. Detto questo, io non sono, diciamo così, non faccio una guerra di religione sulla mia proposta, se passa o non passa. Io la metterò in discussione in Parlamento in maniera pubblica, ognuno si assumerà la responsabilità e vedremo come andrà, come è nella democrazia. Insomma, io vi ringrazio, l'onorevole Luigi Vitali del Popolo della Libertà e Bruno Tinti, ex magistrato, collaboratore del Fatto Quotidiano, per essere stati con noi. Continuiamo su Facebook la discussione, andate lì 24 mattino, ci trovate Antonella Migliaccio, trovate l'alpino Peter Bescapè con la sua penna, non ancora ma tra poco, o meglio tra un paio di giorni, forse domani, chissà. Intanto dalla linea Oscar Giannino, noi ci troviamo domattina alle 7:20, 24 mattino, e radio24.it.